Era una persona veramente a modo, una persona che ha dato tantissimo per la Sardegna, tantissimo, e ha portato la Sardegna ai vertici alti, arrivando ad essere il secondo o il terzo presidente della Repubblica Sardo, quindi va bene, va bene, va bene. Vediamo se Roberto ha finito. Roberto, no, riprendi tu Natalia Capri, lo senti? Io non posso riprendere, c'ho la voce che non va bene, vai. Scusa già che c'è, mia moglie intanto entra, mi dice qualcosa e no, non capisco un accidente. Cosa hai detto? Beh certo che erano altri tempi, io ho iniziato a trasmettere nel 73 a Portosa a casa di mamma e c'era tantissima gente, eccetera. Poi nell'83 sono arrivato a Sassari e capito, e quindi viaggiavo, perché viaggiavo e lavoro ce l'avevo a Porto Torres. Poi niente, insomma, però ti ripeto, io l'ho conosciuto e perciò non ci sono problemi, no, un grandissimo uomo. Vabbè, tempi belli, e cosa vuoi ti dica, KK. Beh Natali, la voce com'è? Ti sto ascoltando col DAC, sembra che sia più chiara. Così è, però è bassa. No, vabbè, rispetto all'altro giorno sta migliorando, vai, piano piano, piano piano. Cerca di non prendere colpi d'aria, di coprirti, perché hai visto stamattina c'è un freddo cane. Ma già passa, dai. No, ti sto ascoltando col DAC, la modulazione è abbastanza chiara, dai, rispetto all'altro giorno. L'altro giorno era proprio molto molto rauca. Va bene, va bene, ok, sì, già, vabbè, Maracchini in quegli anni io no, però dal 73 in poi il primo baracchino che ho avuto è l'HB23, col Turner più 2 da tavolo, che avevo comprato tutto a Pintusa Scarpa in via Cavour, proprio perché avevo visto quello lì e mi piaceva. E poi niente, poi sono andato avanti così per un periodo, cambiavo, baracchini un po' più grandi, ho avuto tanti base, eccetera, eccetera, sempre a casa di mamma. Quando sono arrivato a Sassari ho comprato nell'85, ho comprato il primo 430 da Mario Nottari. E sono andato avanti così, sempre con il Kenwood NM e basta. I baracchini li avevo messi da parte. Ah, già stavo uscendo, non vedevo la lancetta muoversi, il modulatore invece ero io che non stavo, ho capito. Va bene, ok, dai, io rimango in quel rix un attimino perché c'è mia moglie, lei tre, non ho capito cosa vuole, ma penso che ora sono le 8:10, forse mia figlia esce presto oggi, quindi non so se deve venire anche mio genero a cena, non lo so, adesso chiedo, dai, un attimino di bianco per me. Oh Robert, riprendi se ci sei. Sì, sono entrato adesso, chi c'è? Tu e Capri o ce ne sono altri? Natalino c'è anche. E me, Trattalino. Ma non posso parlare, dai, perché sennò forzo la voce. Allora non forzare, Natalino, ti ho detto fatti controllare e prendere l'antibiotico se ci vuole, sennò è peggio, o cortisone, mica, così fa più in fretta, non te l'abbandonare, perché poi puoi creare dei problemi più gravi. Ok, Gianni Capigua non c'è più. Gianni, stai uscendo a tratti, l'ultima parte della conversazione l'ho capita che c'era questo qua, questa persona, però all'inizio ti sei mangiato tutto, non ho capito, o cambi il microfono, non lo so, perché la conversazione non è tutta, non la intendo tutta, ce la facendo a pezzi. Ok, grazie. Stavo dicendo poco fa, non so se mi hai sentito, e non so, te lo ricordo che lavorava a Salvatore Branca a Maestrale, te lo ricordi tu? Di lì c'è Samarcanda, l'hai visto quel mercatino dell'usato? Dove c'è la ferramenta a Carmone, hai detto bene, proprio esattamente di lì. Ieri sono andato, siccome di lì avevo preso tante cose, io avevo visto anche belli apparati, e tempo fa c'era un MC50, no? MC80 forse c'era, poi c'erano la linea Geloso, bella, che quella poi l'hanno regalata, si può dire. Ieri sono andato, c'è un baracchino che non conosco la marca, un amplificatore, mi sembra BV132 se non sbaglio, un coso, rosmetro, wattmetro, quello con l'accordatore, dai, il piccolino, mi sembra della ZG, e poi c'è una camera d'eco. Guarda, una marca che non conosco, non lo so, è scuro, quasi nero, grigio scuro, però non è che me lo ricordo il nome, però era una marca che non conoscevo. Mi sembra di sì, non è abbastanza vecchio, non è nuovo. No, non mi sono interessato, mi sembra c'era anche il microfono se non sbaglio, ma è roba che ti dà poco prezzo quello lì. Sì, Salvatore, ci sentiamo ogni tanto, mi ci abbiamo fatto gli auguri a Natale, a Capodanno, lui è in Austria, un paesino in mezzo alle montagne che aveva un freddo, ogni volta mi chiama, ma quando è che vieni, quando è che vieni, dai prendi il camper e parti. Te la fai fare come l'hanno data così, ti fai fare la patente onoraria, Guido non ha fatto l'esame. Sì, già lo so, io mi è capitato di parlare con persone veramente competenti, che facevano proprio sperimentazione, veri radioamatori, dai, non gente così che lo fa soltanto per divertimento, gente dei tecnici, questo qua che aveva un sistema di antenne allucinante, che utilizzava per come ripetizione, non so cosa cacchio faceva, ma faceva anche i collegamenti con via Luna, dai, faceva nelle bande alte, faceva i collegamenti col coso, diciamo quella cosa di radioamatori proprio che fanno attività a un certo livello. E c'era anche un altro tecnico, adesso non mi viene neanche il nome, bravissimo, quello lì aveva vinto lo stesso il premio. Lì ti dicevano, non so se tu ricordi quella rivista tipo Nuova Elettronica, mi sembra una cosa del genere, ti dicevano ti do questi tre componenti e devi costruire una cosa nel modo più semplice possibile. Questo aveva preso una scatola dei fiammiferi, aveva fatto il circuitino sulla scatola dei fiammiferi e aveva messo questi componenti, non so cosa cacchio, proprio una semplicità e un'economia di costruttiva allucinante, aveva vinto il primo premio, non mi ricordo come si chiamava, però se me lo dici, ma era un genio dell'elettronica, nel senso ci aveva, oltre che saper lavorare, perché più o meno i tecnici se c'è un'esperienza più o meno sanno farlo tutti, però questo era un costruttore, questo era un inventore che aveva fatto questo circuito, gli aveva dato un transistor, un dio, non so che cavolo c'era, qualche condensatore, qualche resistenza, ha detto inventati una cosa, e lui nel modo deve fare, gli premiano l'esempio più semplice dello schema e come si chiama, tutta roba volante senza saldature né niente, ma tu è vero cosa cacchio combinato questo qui, aveva preso la scatola dei fiammiferi, ti ricordi quelli Minerva, i fiammiferi, quelli grandi, vabbè dipende da cosa, perché c'era poi prima all'epoca i vecchi tecnici lavoravano sulle valvole, ce n'era uno bravo, era giù nella parte bassa di via Coso, di via 4 novembre, proprio all'inizio, salendo dalle magistrali, diciamo, da San Giuseppe verso i Vigili del Fuoco, di lì c'era un laboratorio di un uomo anziano, ma era una vita in mezzo alla roba, come si chiama, le valvole, eccetera, eccetera. Via, l'ho sempre conosciuto da ragazzino, ma era pieno di radio, coso e quello. Sì, proprio all'inizio di via 4 novembre, all'angolo con coso, non so se c'è ancora già via Tilio del Fenu o via Giastruni, comunque, perché via Giastruni a un certo punto diventa via Tilio del Fenu, era proprio di lì all'angolo all'inizio. Eia, poi io ho un amico, questa è una persona che ha 97 anni, ma è un genio sui trasformatori quest'uomo, è una vita, lui faceva, lo sai cosa faceva durante la guerra, era il tecnico della luce, di istituto luce, se tu guardi tutti i film, non tutti diciamo, la maggior parte, almeno di quelli che fanno vedere la Rai 3, non so se l'hai mai visto, istituto luce, quello della guerra, tutti quanti, la maggior parte li ha fatti tutti lui girava tutta l'Italia a fare i film, lui era faceva le riprese, il tecnico di tutte quelle, c'aveva un furgone, tempi di Mussolini e cosa del genere, e lui andava ed è un genio dell'elettrotecnica, ma tu devi vedere, io ho una radio, stiamo parlando degli anni 70, un Panasonic con delle casse, i vecchi impianti stereo di una volta, però era un compatto questo che c'era, il registratore, l'autore del pezzo, la radio eccetera eccetera, è un barragione, una cosa grande, e di lì hanno fatto danno, hanno bruciato il trasformatore, proprio bruciato, mi ha detto dammelo a me che te lo costruisco, mi devi dire le tensioni, c'ha 5 uscite questo, positive e negative, dal niente, cioè non dire prendi un trasformatore ne prendi un altro, modifico, l'ha costruito dalle bobine, le spire, tutto quanto, le lamelle, l'ha ricostruito da zero, fatta da zero, cacchio, tu devi vedere questa cosa, quando mi ha fatto le cose, e poi c'era una tensione, ha fatto un conto, il calcolo, perché lui lavora molto sulla cosa, dice qua ci vogliono 200 spire da questa misura, tu devi vedere cosa ha combinato questo qua, 5 uscite diverse, 5 tensioni diverse, per cui positive e negative, me l'ha rimessa a posto, appena mi ha alzato una bomba, sì, ormai c'è il consumismo, vabbè con quello che costa non si va a cambiare un coso, ti costa più che comprare un nuovo, ormai i televisori te li tirano la faccia, prima comprare un televisore era un investimento, poteva essere più di uno stipendio intero se non due, diciamo mediamente sto parlando negli anni 70-80, poi per dire se li compravi negli anni 60 i televisori ci volevano 6 mesi, io mi ricordo la radio, mia zia c'aveva una radio, sto parlando del 1956, l'aveva pagata 54.000 lire, che era una cifra come possono essere 5 milioni di adesso, e poi prova a comprare un HF, un 4,40, un 140, erano cifre da paura, 1,5 milioni, 1,6 milioni, non parliamo di apparati più grossi tipo 9,40, cosa del genere, ma costavano un'esorbità e costano ancora, perché se tu ti compri un HF adesso il più scarcino non lo paghi meno di 1500 euro, ma proprio il nastro di partenza, se vai a salire su quegli apparati tipo lo Iaesu, l'FT9000, cosa del genere, ti costano 6-7 mila euro, cioè il 7,90 della, il 9,90 della Kenwood mi sembra costi 12 mila euro, sono cose assurde perché non c'è mercato, nel senso non c'è la grande produzione, non è come televisori, ti ricordi i primi televisori LCD costavano milioni, adesso a 150 euro ti danno un 32 pollici, non so, costavano un'esorbità, perché tra l'altro poi la componentistica era all'inizio agli albori dei transistor, non c'erano le grandi produzioni, per cui un transistor magari lo pagavi 15 mila lire, e adesso te li fanno pagare pochi centesimi un transistor, ma prima la componentistica, produrre un transistor era una tecnologia innovativa, noi magari ti costava meno una valvola che un transistor. Ok, io adesso devo andare a mandigare, se me ne danno. Ok, dai, come al solito sempre un piacere ascoltare gli amici. Se ci siete, magari domani ci facciamo un'altra chiacchieratina. Adesso vado a mangiare, poi mi guardo un pezzo di televisione e poi domani si ricomincia la giornata lavorativa. Ah, a proposito, ti voglio dire una cosa prima di chiudere. Stavo guardando su internet l'altro giorno, infatti ho pensato a te, stavano vendendo vecchio Cometa, era del 1994 mi sembra, un furgone della Fiat, non so se era, aiutami tu, un tipo 790, 490, di quelli turbo star, quelli grandi, ma dentro era nuovo, lo stavano vendendo 2500 euro, sì, ma cacchio, 2500 euro ti compri un appunto, mi cacchio, mi ha colpito perché dentro era in ordine, il motore dice marciante, magari ci avrà avuto 1 milione di chilometri, però la macchina anche esternamente era bellina, non era messa male. Come? No, quello grande era 55 posti, che cos'è? Era un colore blu, era, ma le interni erano belli, tipo in panno blu erano, e ti sto dicendo, la macchina era in ordine, veramente messa bene. 370, detto bene, non mi veniva il nome, 370. E lì mi è una curiosità, quanto paga un pullman di assicurazione? E non è neanche tanto, ma dipende dal numero di posti. Ah, un'altra pura, l'hai trasportati quanto costa? Non c'è uscito niente, ripeti quello che hai detto, non ho sentito. Ma dipende dal numero della persona. Vabbè, non è tantissimo, consiglio. E c'è qualunque tipo di infortunio, se uno inciampa e si sbatte la bocca a terra e se non prende niente lo paga. E, ho capito il senso del discorso, però all'inizio non ti ho sentito, dai. Ok, cerca di sistemare, adesso devo chiudere veramente, dai, ti saluto, grazie della compagnia, saluto tutti gli eventuali amici in ascolto, cuore da parte mia, ciao ciao.